sarebbe il mio primo album. Di Nuts MC visita sto showroom, è pieno di cariche esplosive, pronto a fare boom. Da quasi la grinta di esibirsi ad una jam, espongo contesti collegati con un filo di logica. Zero testi, da mentalità patetica, me ne frego delle vostre opinioni. Voi siete la massa e noi ce ne restiamo fuori. Ci consideriamo parolieri di vita quotidiana, seguaci di cultura metropolitana. Sono fuori ma sto lontano metri dal toro, e spingo il mio stile con passione e decoro, descrivendo comportamenti, ricordi, amori, tradimenti. E allora adesso senti, senti un MC esordiente che vuole emergere, ma non come un qualsiasi stronzo in mezzo al mare, ma come cantastorie per far capire, per poter lasciare il segno senza svanire nell'aldilà contaminato, invaso di robaccia. Adesso stop, sediti, ascolta la prossima traccia.